Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo 9, sessualità gay. Questo capitolo tratterà della sessualità gay a vari livelli di coinvolgimento affettivo. Partiremo dalla differenza tra sesso e amore, ci fermeremo sul concetto di possessività, quindi cercheremo di chiarire che cosa si intenda per sessualità gay vissuta con leggerezza, e concluderemo con una breve analisi del rapporto tra sessualità gay e gioco. Partiamo dalla prima questione. Alla classica domanda «Quando un ragazzo è gay?» rispondo sempre che un ragazzo è gay se si innamora di altri ragazzi. A questa definizione, che sembra ovvia, si contrappone un'altra definizione diffusissima secondo la quale un ragazzo è gay se fa sesso con altri ragazzi, che è la definizione più comune di gay. I due concetti sembrano simili, ma in realtà differiscono tra loro quanto l'amore differisce dal sesso. Non è una questione terminologica ed ha risvolti importantissimi nella vita delle persone. È un dato di fatto che di ragazzi che fanno sesso con altri ragazzi senza minimamente innamorarsene ce ne sono molti. Questi sono gay secondo la definizione comune, ma secondo le convenzioni che ho seguito dovrei chiamarli semplicemente ragazzi che fanno sesso con altri ragazzi. Il mercato della pornografia è indirizzato nella grande maggioranza proprio a loro. Non intendo dire che i ragazzi che si innamorano di altri ragazzi non facciano uso della pornografia. Un'affermazione simile sarebbe ridicola. Intendo invece dire che la masturbazione dei ragazzi che si innamorano di altri ragazzi molto spesso non è collegata alla pornografia, ma alla fantasia sessuale e alla rielaborazione di esperienze e di desideri legati a persone reali in cui l'affettività ha un ruolo sostanziale. Accade spesso che i ragazzi che fanno sesso con i ragazzi senza innamorarsene siano persone che hanno anche una vita sessuale etero, più o meno soddisfacente. Non si tratta propriamente di bisessuali proprio perché verso i ragazzi manca una vera componente affettiva, che si trova invece rivolta verso le donne ed è spesso fortemente frustrata. Per questi ragazzi che fanno sesso coi ragazzi, il sesso con un ragazzo è essenzialmente un'avventura, un diversivo, una fuga dalla frustrazione dell'affettività etero. Queste persone tendono, naturalmente, a riportare in un rapporto con un ragazzo modelli di comportamento tipicamente etero, lontanissimi dalla sessualità spontanea dei ragazzi che si innamorano di altri ragazzi, cioè lontanissimi dalla parità che è tipica della sessualità gay. Quando parlo della sessualità gay non mi riferisco ovviamente alla pornografia né a quello che la gente crede essere tipicamente gay, ma quello che la maggior parte dei ragazzi che si innamorano di ragazzi, cioè di gay in questo senso, vive e soprattutto desidera. Per spiegare la differenza tra questa vera sessualità gay e quella dei ragazzi che fanno sesso coi ragazzi ma non se ne innamorano, ricorrerò ad un esempio concreto, tratto dal Morris, uno splendido romanzo di Edward Morgan Forster. Quando ho letto il romanzo per la prima volta, ho provato il brivido di avere fra le mani un libro che sarebbe rimasto sempre sul mio comodino. Il libro è straordinariamente coinvolgente. Morris e Clive, un suo compagno di college, avviano una relazione omosessuale. Sembra una storia d'amore destinata ad essere duratura e profonda, ma Clive è un giovane aristocratico ambizioso e sceglie di sacrificare l'amore sull'altare della carriera politica. Non sposarsi ed essere considerato omosessuale lo emarginerebbe, arriva quindi a fingere di innamorarsi di una ragazza e a sposarla. Morris e Clive continueranno a frequentarsi in modo formale, ma la prima storia d'amore del libro è finita. Morris, invitato da Clive nella sua tenuta, conosce la moglie di Clive, ma soprattutto incontra un altro ragazzo, un guardacaccia della tenuta di Clive, di nome Scudder, più o meno coetaneo di Morris e Clive. Mentre gli aristocratici amici di Clive trattano Scudder come un servo e lo umiliano dandogli ordini e mance in denaro, Morris lo tratta alla pari, fin dal primo momento, e tutti e due capiscono che per loro sta cominciando qualcosa di nuovo ed importante. Vorrei sottolineare fortemente il fatto che Morris tratti Scudder alla pari, perché è proprio questa la condizione di fondo di un vero innamoramento gay. Quando in occasione di una forte pioggia cola acqua dal soffitto in un salone, gli aristocratici chiamano Scudder perché provveda a ripulire tutto e a spostare i mobili per evitare che si bagnino e se ne vanno in un'altra stanza. Morris invece si toglie la giacca e resta con Scudder a ripulire la stanza in cui era piovuto. Questo e altri simili comportamenti di Morris sono spontanei e sono indice del rispetto di Morris verso Scudder e del fatto che Morris cerca di fare qualcosa che Scudder possa gradire e che sia occasione per avviare un minimo di dialogo diretto, senza la preoccupazione della ritualità sociale e di casta da rispettare, e soprattutto in una dimensione più diretta e privata di simpatia umana. In una notte buia, Scudder sale con una scala dal giardino nella camera di Morris e i due vivono insieme la loro sessualità. Il momento è esaltante, ma al mattino Morris è assalito dal dubbio che Scudder voglia ricattarlo. Morris e Scudder finiranno per spiegarsi e per rendersi conto che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Scudder, spinto dalla famiglia, decide di partire comunque per l'America come emigrante, perché pensa che quello che è accaduto tra lui e Morris non debba condizionare la vita di Morris, che potrebbe avere un futuro in politica nell'alta società. Morris è assalito dalla disperazione, vorrebbe rivedere Scudder, vorrebbe parlargli, ma non ci riesce. Va al molo dove il piroscafo sta per partire, ma Scudder non c'è. Allora si ricorda che avevano parlato della possibilità di incontrarsi nella rimessa delle barche della tenuta di Clive. Ci va di corsa e Scudder è lì, non è partito. Cioè Scudder, alla fine, ha fatto un atto di fede in Morris. Ha creduto nell'amore di Morris e nel fatto che Morris non lo avrebbe abbandonato in nome della carriera politica e della posizione sociale. Quando Morris vede Scudder nella rimessa delle barche, è così felice che non riesce nemmeno a parlare e il capitolo si conclude così. Dato che Morris non disse una parola, e in effetti non poteva, lui aggiunse: "E adesso non potremo essere più divisi, mai più, e basta." Un ultimo capitolo conclude il romanzo, se volete un capitolo che ha l'amaro del contrappasso dantesco. Clive si rende conto della felicità di Morris, sa che Morris ha fatto la scelta giusta e che amerà riamato Scudder per tutta la vita, mentre lui, aristocratico a rivista, dovrà andare a letto con una bellissima ragazza che non ama e alla quale rovinerà la vita per seguire le sue ambizioni. Il romanzo presenta due personaggi che incarnano uno la moralità gay, Morris, che è un ragazzo che si innamora di ragazzi, e l'altro l'immoralità gay, Clive, che è un ragazzo che fa solo sesso con i ragazzi, ma non se ne innamora. Morris è il gay onesto che quando si innamora senza riserve e non è disposto a barattare il suo amore in cambio di nulla. Il suo amore per Scudder lo porta ad esporsi e a rischiare in prima persona mettendo da parte qualunque privilegio di casta. Clive è il gay disonesto che accetta di mettere da parte la sua sessualità, dietro la quale non ci sono evidentemente forti sentimenti, vendendosi in cambio del prestigio sociale e della carriera politica. Ogni dialettica è impossibile tra questi due personaggi, che sono l'incarnazione del bene e del male sotto la prospettiva gay. Quanto a Scudder, che non è certo un personaggio di secondo piano, sarei portato a dire che rappresenta per Morris l'opportunità, l'occasione unica per uscire dal limbo delle sublimazioni ed entrare nel mondo della sessualità vera, vissuta con passione. Scudder prende le prime iniziative di tipo esplicitamente sessuale e nel farlo rischia moltissimo. Anche Scudder ha una moralità alta, un uomo volgare avrebbe potuto usare l'arma del ricatto per approfittare dei sentimenti di Morris. Da questo pensiero non lo sfiora nemmeno. E quando comprende che questo è proprio ciò che invece Morris sta pensando di lui, gli dà una lezione di moralità, rimproverandolo di aver nutrito anche solo il sospetto di essere oggetto di un'azione così bassa da parte sua. Morris capirà. Morris e Scudder vivono la sessualità come espressione del loro amore profondo, ed è proprio così che la sessualità acquisisce il suo significato più alto, perché l'amore è trasporto totale verso l'altro. La sessualità gay di Morris e di Scudder da un lato e quella dell'aristocratico Clive dall'altro sono apparentemente sovrapponibili, ma per i primi il sesso è realmente amore, per il secondo è solo un gioco che deve cedere il passo di fronte a interessi più importanti. Veniamo ora al secondo concetto, quello dell'amore possessivo. Anche in questo caso farò ricorso ad una citazione letteraria, e precisamente all'Another Country di James Baldwin, uno dei più bei libri a tema gay che io abbia mai letto. Si tratta di un capolavoro della letteratura americana, ma è il lato gay del libro che mi ha sempre incantato. Per Baldwin l'omosessualità è un valore alto, è una forma di amore con la A maiuscola. Il libro ha dei risvolti tragici nella parte iniziale, che sembra seguire un indirizzo piuttosto comune nella letteratura gay precedente, omosessualità come tragedia. Ma la seconda parte, che è quella preponderante, capovolge completamente le cose e l'amore omosessuale finisce per imporsi come un valore capace di dare senso a una vita. I personaggi sono molti, ma la storia che costituisce la parte centrale del libro è una meravigliosa storia d'amore gay nata per caso tra Eric, un giovane scrittore americano, e Yves, un ragazzo francese più giovane di lui. La loro storia non è una tragedia, non è una storia di solitudini, no. È una storia di amore vero ed è una storia di amore che finisce bene. Eric incontra Yves poco dopo la guerra. Sanno benissimo entrambi che la loro vita non sarà più quella di prima. L'atmosfera è di tenerezza, di rispetto reciproco, di amore profondo. Eric torna in America e Yves gli manda una dolcissima lettera e dopo un po' lo segue negli Stati Uniti. Yves arriva all'aeroporto di Los Angeles ed Eric lo attende. Quando il ragazzo attraversa i cancelli con l'agitazione del cuore, sa che è arrivato nella città Los Angeles, in cui gli abitanti del paradiso, gli angeli appunto, hanno posto la loro dimora. E con questa metafora il libro si conclude. Ma questa storia d'amore non è una favola. Yves ama Eric, ma sa che prima o poi avrà bisogno di sentirsi libero anche da Eric per essere se stesso. Anche Eric è consapevole di tutto questo. Sa che prima o poi, in un futuro più o meno lontano, Yves se ne andrà. Dovrà andarsene per seguire la sua strada. Ma questo fatto non porterà Eric ad abbandonare Yves al suo destino per cercarsi un altro ragazzo. Eric lo amerà in modo totale, pur sapendo che a un certo punto lo perderà, perché, come dice Baldwin, nell'amore non c'è nulla da decidere, ma tutto da accettare. Questa considerazione mi è sempre sembrata sublime. In pratica, il rapporto tra Eric e Yves è un rapporto di vero amore gay non possessivo. Vorrei sottolineare che molto spesso i gay hanno in mente un modello di coppia gay derivato dal matrimonio etero. Nel caso della coppia gay, dato che la legge in Italia non contempla le unioni gay, non ci sono garanzie legali forti di stabilità almeno formale del rapporto, ma resta comunque il doppio presupposto che la coppia debba essere destinata a durare e debba essere necessariamente esclusiva, cioè in sostanza debba reggersi su un vero e proprio patto tra due ragazzi che si vincolano alla reciproca fedeltà e alla indissolubilità del rapporto. Questo almeno sembra a priori essere la condizione più desiderabile. La storia raccontata da Baldwin è invece un esempio di rapporto d'amore spontaneo, alla cui base non ci sono patti espliciti o taciti di nessun genere. In sostanza si tratta di un vero amore non possessivo, senza alcun vincolo esterno. Pretendere una garanzia di fedeltà e di durata significa non rendersi conto che alla base di ogni rapporto d'amore ci sono i sentimenti, e i sentimenti non sono coercibili o vincolabili in nessun modo. Chiediamoci ora, quali sono le manifestazioni più tipiche della sessualità staccate da una vera dimensione affettiva? Qui il problema si fa complesso e si arriva alla conclusione che in realtà una dimensione affettiva, per quanto tenue, alla base della sessualità c'è sempre. Si può trattare di amore assolutamente paritario e senza compromessi come quello di Morris e di Scudder, o addirittura senza alcun presupposto di durata o di esclusività come quello di Eric e di Eve, ma in fondo anche l'amore a metà di Clive per Morris era nato in modo spontaneo e sottintendeva, almeno all'inizio, un vero coinvolgimento affettivo di Clive nei confronti di Morris. L'amore in sé, quando nasce, nasce con delle enormi potenzialità di tipo affettivo. Poi su questa base si innesta il ragionamento, che non è più trasporto affettivo. Subentra la logica del dare e dell'avere, della convenienza. Subentra il bilanciamento rischi-benefici e la dimensione affettiva passa spesso in secondo piano o finisce per essere del tutto annullata. L'amore gay assolutamente paritario e incondizionato esiste nei romanzi come archetipo, come principio ispiratore, ma quando ci si confronta con la realtà si capisce che nessuno è perfettamente Morris o perfettamente Eric e che in tutti noi, in vario modo e grado, si nasconde un po' di Clive. Che i sentimenti veri convivono sempre in varia misura con altre motivazioni. Vorrei dire subito che le altre motivazioni non sono necessariamente utilitaristiche o opportunistiche come quelle di Clive, e spesso sono spontanee e del tutto inconsce. Parlando con i ragazzi, mi capita talvolta di ascoltare espressioni come voglio provare a stare con un ragazzo. Questa espressione è un segno di immaturità affettiva, cioè del non essere pronti a capire il senso della vita di coppia. Il discorso va approfondito. La sessualità di un ragazzo si sviluppa e si struttura attraverso la masturbazione individuale, ben prima che si arrivi ad un rapporto di coppia. La masturbazione attraverso le fantasie che l'accompagnano permette ad un ragazzo di prefigurarsi la futura sessualità di coppia, ma la masturbazione è il limite intrinseco di essere un'attività sostanzialmente individuale e proiettiva, in cui un ragazzo si confronta solo con la sua fantasia, e è proprio per questo che la masturbazione è in genere molto gratificante, perché non c'è da confrontarsi che con se stessi. Un ragazzo che arriva alle prime esperienze di innamoramento può trovarsi facilmente in situazioni traumatiche, in cui la sua fantasia sessuale deve fare i conti con la realtà del confronto con l'altro. L'esperienza dell'innamoramento è di per sé completamente diversa da quella della masturbazione. Contiene insito il rischio di un contatto affettivo reale con un altro ragazzo che comporta tutta una serie di problemi che nella masturbazione sono risolti a livello di proiezioni fantastiche e nell'innamoramento devono essere affrontati sul piano reale. Si tratta di dichiarare o non dichiarare i propri sentimenti, dell'incertezza sull'orientamento sessuale dell'altro ragazzo, sul tipo di rapporto che si può creare, sul modo di procedere, sui tempi, sui limiti del rapporto. Resta tuttavia una cosa ben chiara: quando ci si innamora, il rapporto con l'altro è essenziale. L'innamoramento ha una dimensione affettiva profonda e per un ragazzo giovane ha un valore formativo fondamentale. È un coinvolgimento emotivo che tocca tutti gli aspetti della personalità e porta un ragazzo in una dimensione realmente nuova. Per alcuni elementi, come l'avere l'erezione quando ci si trova vicini ad un ragazzo che si ama o semplicemente quando lo si pensa, o come il masturbarsi pensando a quel ragazzo, l'innamoramento si sviluppa in continuità con le esperienze vissute nella masturbazione, che è ora utilizzata dal ragazzo innamorato proprio per rivivere, per proiettare nella sua mente immagini tutte concentrate sulla figura del ragazzo amato. Ma l'innamoramento ha anche una dimensione assolutamente nuova e determinante, di tipo non strettamente sessuale. Si desidera la presenza dell'amato e comincia a farsi sentire una componente affettiva fortemente altruistica, che è la componente essenziale dell'innamoramento. Ci si rende conto che si vuole bene all'altro ragazzo, che si vuole il suo bene, che un suo sorriso è prezioso e che in fondo l'interesse affettivo è rivolto alla persona dell'altro nel suo complesso. Questo tipo di esperienze favorisce in modo notevolissimo la maturazione di un ragazzo e gli fa provare, al di là della stretta sessualità, che cosa sia l'amore ed anzi gli fa vedere la sessualità non come fine, ma come un mezzo per la realizzazione del bene dell'altro, rispettando i tempi e le vere esigenze dell'altro. Tutto il meccanismo sopra descritto, che può portare un ragazzo a vivere le esperienze più belle della vita, può tuttavia incepparsi piuttosto facilmente e può condurre a situazioni anche molto imbarazzanti che si possono riassumere nel concetto di falso innamoramento. Accade purtroppo che molti ragazzi, per non avere avuto sotto gli occhi veri esempi di vita affettiva, soprattutto a livello familiare, siano portati a chiamare innamoramento il cosiddetto falso innamoramento, cioè in sostanza uno stato emotivo che non è provocato dallo stabilirsi di relazioni personali profonde con un altro ragazzo, ma dalla spinta alla sperimentazione della sessualità. In buona sostanza, in un falso innamoramento si vede nell'altro non un fine, ma uno strumento che ci permette di sperimentare la sessualità di coppia. Prevale dunque una dimensione egoistica che nell'innamoramento vero cede totalmente il posto all'amore per l'altro e alla sua centralità. La dimensione strumentale dell'altro si manifesta nella immediata sessualizzazione del rapporto, che spesso interviene anche al primo incontro. Va dato atto che per i ragazzi la confusione tra un innamoramento vero e un falso innamoramento è dettata da fattori pressoché del tutto inconsci. Tuttavia, il falso innamoramento, che si esprime sistematicamente col linguaggio di quello vero, può indurre in grossi errori l'altro ragazzo in termini di valutazione affettiva della serietà del rapporto, che si presenta come un rapporto d'amore, ma ha sostanzialmente basi egoistiche e nasconde una visione dell'altro come strumento di esplorazione sessuale. Un aspetto assai tipico della volontà esplorativa che caratterizza il falso innamoramento sta nel fatto che assai spesso tra due ragazzi le volontà esplorative sono reciproche, come è reciproco l'inconscio tentativo di strumentalizzazione dell'altro. Quando ciò accade, ed è una cosa piuttosto comune, tra ragazzi molto giovani e non solo, si avverte comunque il senso di una complementarità affettiva che tuttavia non ha la profondità di un innamoramento vero. Il vero discrimine sta nella dimensione altruistica o egoistica del rapporto. Quando un ragazzo gay molto giovane si innamora di un altro ragazzo molto giovane, deve porsi molte domande che possono essere tipicamente riassunte come segue. Sono veramente innamorato di lui? Cioè sono disposto a mettere lui come persona al primo posto, mettendo in secondo piano le mie idee e le mie fantasie sessuali per fare sempre quello che è meglio per lui? La sua persona e la sua sessualità sono per me un oggetto di rispetto assoluto? Se la risposta alla prima domanda, che è la domanda fondamentale che riguarda me, è positiva, cioè se in piena coscienza posso dire di amarlo, devo domandarmi molte altre cose che riguardano lui. È cosciente del fatto che io ne sono innamorato? O non lo vive piuttosto come una bellissima amicizia? Cosa che accade frequentemente quando ci si innamora di ragazzi etero e non solo. È gay o non è gay? Domanda tipica che angoscia da sempre i ragazzi gay che nella vita reale si innamorano di ragazzi di cui non conoscono l'orientamento sessuale. Fino a che punto posso parlargli di me? È pronto ad accettare l'idea che un ragazzo possa innamorarsi di lui? Posso dirgli che quando sto al telefono con lui sto in erezione tutto il tempo e che mi masturbo pensando a lui, o un discorso di questo genere lo turberebbe? Come posso arrivare a capire quale sia veramente il suo bene? Un'osservazione fondamentale. Se un ragazzo si masturba pensando a un altro ragazzo e quello non lo sa, il primo ragazzo non fa nulla di male. Ma tra il masturbarsi pensando ad un ragazzo e il costruire con lui un rapporto affettivo serio c'è realmente un abisso. Specialmente quando si tratta di ragazzi molto giovani, è assolutamente indispensabile che il contatto affettivo si sviluppi gradualmente in tempi lunghi perché le scelte siano realmente consapevoli. Non turbate mai l'animo del ragazzo che amate con la richiesta di continue conferme dei suoi sentimenti verso di voi o con la richiesta di andare oltre. Lasciatelo libero, non create di ansia, non mettetelo alle strette. Se lo amate, lo accettate per quello che è. Ogni tentativo di cambiarlo per portarlo ad essere più conforme ai vostri desideri è un sintomo di possessività e di egoismo, in sostanza di falso innamoramento. Comportamenti che non sono dettati dall'amore ma dal desiderio di sperimentazione sessuale possono ferire profondamente l'animo di un ragazzo molto giovane, che può aver investito tutto se stesso nella costruzione di una storia d'amore o di ciò che sembrava una storia d'amore. Simili comportamenti, veramente deprecabili, lasciano spesso tracce indelebili sia nel ragazzo che avverte la sensazione di essere stato usato dal suo compagno e che potrebbe convertire il suo amore in odio e rimanere profondamente condizionato da questa esperienza, e ancora di più se è stata la prima esperienza, sia nel ragazzo che dovesse accorgersi in un secondo tempo di aver creato un trauma al suo compagno. Fin qui ho cercato di riassumere il senso della sessualità gay vissuta all'interno di un rapporto d'amore. Ovviamente la sessualità gay esiste anche al di fuori di un rapporto d'amore. La sessualità può cioè essere anche presa con leggerezza. Dico proprio leggerezza, non superficialità. Cioè può essere vissuta consapevolmente senza un vero coinvolgimento affettivo. La cosa può presentare qualche rischio, ma accade piuttosto comunemente. Per cercare di spiegare che cosa si intenda con l'espressione vivere la sessualità con leggerezza, partirò da una mail che ho ricevuto il 21 marzo del 2009. Caro Project, ho ripensato alla nostra chiacchierata di ieri notte e se ci penso bene, ci sono delle cose che secondo me non sei arrivato a capire. Cioè, per te, una cosa o è bianca o è nera, ma penso che in quello che dici ci siano ancora parecchi pregiudizi. In particolare sul sesso senza amore. Forse magari ti sei dimenticato di come ci si può sentire a 20 anni, perché nelle cose che dici ci sento troppo moralismo e troppo distacco dalla realtà, almeno dalla mia realtà. È un fatto che il sesso ai ragazzi piace e non è che piace solo quando stai vivendo una storia d'amore coinvolgente che magari pensi che sarà quella che segnerà la tua vita. No, il sesso ai ragazzi, ma penso pure a quelli di 40 anni, piace sempre. Non con tutti, perché non siamo attirati sessualmente da tutti, ma quando vedo un ragazzo che mi attizza io un pensiero sopra e non solo un pensiero ce lo faccio e come. Poi magari non se ne fa niente perché è etero o perché a lui non interesso, ma se per esempio quest'estate andassi in vacanza e trovassi al mare un bel ragazzo che ci sta, perché dovrei dirgli di no? E perché dovrei dire di no a me stesso? Naturalmente con tutta la prudenza in fatto di prevenzione, su questo ti do completamente ragione, ma perché mi dovrei fare scappare un'occasione così? Che cosa farei di male con quel ragazzo se ci stessi veramente? Naturalmente, se è possibile, salvando sempre la salute. Io la spinta sessuale la sento fortissima e non è necessariamente una cosa che mi deve portare all'amore eterno. Tra etero c'è di mezzo il problema che una ragazza può rimanere incinta. E lì la cosa del non cercare sesso solo come sesso, la capisco di più, ma tra due ragazzi? Vabbè, diciamo che se fossi fidanzato io o se fosse fidanzato lui, allora pure pure per rispetto del mio o del suo ragazzo ci può stare. Ma quando siamo due ragazzi che non hanno un ragazzo, perché il sesso bisogna metterlo da parte? Magari ho capito male quello che hai detto, però dalle tue parole ho capito questo. Ma perché le cose non le possiamo prendere con leggerezza? Va bene il sesso, diciamo così, come forma d'amore, ci sta tutto, ma perché dire no al sesso anche come semplice divertimento, come gioco? Poi quando avrò un ragazzo mi farò bastare il mio ragazzo, ma adesso non ho nessuno e non capisco perché non possa anche divertirmi con un po' di sesso. E poi, a quello che sento, i ragazzi lo fanno e come, anche se poi fanno tanti bei discorsi sull'amore, eccetera, eccetera. Ma i ragazzi sui siti porno che ci vanno a fare? A cercare l'amore vero? Quello che deve durare tutta la vita? No, ci vanno solo a cercare un po' di divertimento. E allora quando ti trovi con un ragazzo che ti piace e che ci sta, perché devi mettere da parte l'idea? E poi, Il sesso è un divertimento sano. Non è come la droga o come l'alcol, non ti rovina la salute. Mi sembra che tu consideri il sesso una cosa che si può fare solo se nell'ambito di una specie di matrimonio tra due ragazzi che ricalca molto il modello classico di matrimonio. Promessa d'amore eterno, di fedeltà, eccetera, eccetera. Voglio aggiungere una cosa. In tutto quello che hai detto ieri sera, questa è l'unica cosa sulla quale non mi sento d'accordo e mi sento più libero di te. Forse potrei dire più giovane di te. Per il resto posso dire che mi ha fatto enormemente piacere confrontarmi con te perché mi hai fatto riflettere su tante cose, diciamo così, su quelle più serie, e di questo ti ringrazio. Fabio. Questa mail è stata pubblicata sul forum ed ha ricevuto da un altro ragazzo un commento quanto mai significativo. Il seguente. Personalmente non ho colto fastidio nella mail di questo ragazzo, ma un tentativo di spiegare il proprio personale punto di vista e una gerarchia di valori diversa, in cui il sesso ha un ruolo quasi fisiologico. Mi è parso di capire, a prescindere dall'innamoramento. Divertirsi, come si suol dire, e anche sperimentare hanno un'importanza in sé. Personalmente penso che la fase di sperimentazione sessuale sia inevitabile e sia quasi fisiologica. Già da bambino ognuno di noi comincia a sperimentare le proprie pulsioni, nel senso di cominciare a viverle e di doverci fare i conti. Questa fase è inevitabile e secondo me bisogna solo attrezzarsi a viverla nel modo migliore. I danni che una sperimentazione alla cieca può innescare non sono solo quelli relativi alla salute. Nella instabilità di una persona questi tentativi ciechi e ripetuti di soddisfare le proprie pulsioni sessuali e affettive possono generare effetti devastanti sulla costruzione del sé. Aggiungo una questione che mi è parsa passare in secondo piano in tutte queste discussioni. Fabio giustamente sottolinea che certe cose le fanno anche gli etero. Ovvio che sì. Tra l'altro, questo non significa che agli etero facciano bene. Però c'è un punto interessantissimo, ed è la vita notturna. Trovo molto bella questa metafora del giorno e della notte, della luce intesa come trasparenza e linearità e della notte come nascondimento e reclusione. Affidarsi alle chat e ai locali, al di là di tutto, significa relegare la propria sessualità ad una dimensione notturna, alcune volte fisicamente notturna, altre volte metaforicamente. Per questa via è facile avere quasi una doppia vita. Gente che di giorno è, diciamo così, di tutto rispetto, seria, e che di notte va a locali o incontra persone della chat e così via. Quello di cui parlo non è ovviamente un assioma. Siccome frequenti discoteche e locali notturni, sei scisso con te stesso. Ma è un rischio che vedo molto concreto. Questa sorta di schizofrenia è un po' un problema in sé. Sicuramente allenta lo stress indotto dal contesto omofobo nel quale viviamo, ma causa una sorta di scissione interna tra il giorno e la notte. Questo problema un etero non ce l'ha, o meglio, non è detto che ce l'abbia, o meglio ancora, è più facile che lo risolva qualora gli si presenti. Ma torniamo alle nostre riflessioni. La sessualità vissuta con leggerezza rappresenta una possibilità reale e di per sé niente affatto assurda. Ma prima di tutto andrebbe realmente vissuta con leggerezza, cioè non dovrebbe avere solo l'apparenza della leggerezza, nascondendo sotto di sé valenze affettive più o meno frustrate a livello individuale, e soprattutto dovrebbe essere condivisa con persone pienamente consapevoli che si tratta proprio di sessualità vissuta con leggerezza, e che quindi le possibili attese vanno opportunamente ridimensionate. Con queste premesse, cioè con la piena consapevolezza da entrambe le parti che si tratta di sessualità vissuta con leggerezza, nulla toglie che si tratti di un'ipotesi possibile e praticabile. Veniamo ora a considerare, proprio in tema di leggerezza, la prossimità tra la sessualità e il gioco. Un grandissimo numero di ragazzi, se non addirittura tutti, si sono ritrovati prima o poi a partecipare o ad assistere ad episodi di gioco a sfondo sessuale. cioè di gioco nel quale intervengono più o meno scopertamente contenuti sessuali o concernenti la nudità. Si parte da livelli esclusivamente verbali, come nel gioco della verità su contenuti sessuali, e si passa poi per il contatto fisico non specificamente genitale, come nella lotta fatta per gioco, che per esempio al mare, fatta con addosso il solo costume, comporta un contatto fisico molto diretto, e si arriva fino a giochi esplicitamente sessuali, in cui è compresa anche la possibilità di toccarsi i genitali. Oppure è previsto che uno dei partecipanti resti nudo alla fine del gioco, strip poker per esempio. Il gioco sessuale può essere non malizioso, cioè può nascere senza alcuna esplicita finalità sessuale, ma può anche essere programmato proprio al fine di creare un coinvolgimento sessuale. In alcuni casi il gioco sessuale rasenta il confine della violenza. Quando cioè si tratta di giochi di gruppo imposti ad una vittima non consenziente. È il caso del fare la stira, un gioco sessuale non privo di violenza che si praticava in ambiente scolastico o universitario nei confronti delle matricole, in ambiente militare, quando il servizio militare era obbligatorio, e consisteva nel denudare un ragazzo in gruppo, ovviamente contro la sua volontà, tenendolo fermo e impedendogli di difendersi. Spesso gli altri ragazzi toccavano anche i genitali della vittima, anche se in atteggiamento giocoso. La dimensione violenta era notevolmente attenuata dall'idea del gioco che accompagnava il rito e dal fatto che chi era stato vittima della stira poteva la volta successiva partecipare al gioco verso un altro ragazzo. Va sottolineato che questo gioco sessuale è caratteristico di ambienti esclusivamente maschili, caserme e classi scolastiche maschili. Oggi, con l'obbligo delle classi miste e anche con le squadre di educazione fisica miste, questi usi sono pressoché scomparsi. Tra i giochi, al limite del gioco sessuale, c'è il tickling, cioè il solletico, che comincia banalmente come un gioco, ma consente a due ragazzi di familiarizzarsi con la reciproca fisicità e soprattutto abbassa la soglia delle difese. E scioglie molto i comportamenti, il riso diventa sfrenato e il contatto fisico si accetta in una dimensione di gioco e di divertimento. Non è affatto improbabile che un ragazzo gay, ma anche un ragazzo etero, vada in erezione trovandosi in una situazione simile, cosa che non accadrebbe con altrettanta facilità in situazioni esplicitamente sessuali. Il ridere è il cavallo di Troia della sessualità, che permette ad un ragazzo di accettare in questo modo ciò che esplicitamente non accetterebbe. Attraverso il tickling e attraverso i giochi sessuali si manifestano spesso i primi segni di una sessualità gay in ragazzi che si sono ritenuti sempre etero. Tuttavia, il partecipare a giochi sessuali tra persone dello stesso sesso non significa affatto che si è gay. In una classe maschile, fare la stira era un tipico gioco sessuale etero. Sottolineo che non è la partecipazione al gioco sessuale che determina l'orientamento sessuale, ma che a seconda dell'orientamento sessuale la partecipazione al gioco sessuale è vissuta in modo totalmente diverso. I ragazzi etero che partecipano ad un gioco sessuale tra ragazzi dello stesso sesso lo vedono come gioco, al massimo come un gioco disinibito, ma non come un'attività sessuale. I ragazzi gay che partecipano allo stesso gioco lo vivono specificamente come un'attività sessuale. La differenza nel modo di partecipare si riverbera nel fatto che un ragazzo etero che ha partecipato ad un gioco sessuale con altri ragazzi non ne caricherà il ricordo di valenze sessuali, cosa che invece farà il ragazzo gay. Il ragazzo gay farà di quel ricordo, che per lui è chiaramente un'esperienza sessuale, una fantasia masturbatoria forte, e quel ricordo si stamperà in modo indelebile nella sua memoria. La differenza nel modo di vivere la partecipazione al gioco sessuale da parte di un ragazzo etero e da parte di un ragazzo gay può creare grossi problemi, e di fatto li crea, nel caso in cui il gay sia innamorato dell'etero e tra i due l'atmosfera sia tanto disinibita da consentire di fatto giochi sessuali, cosa tutt'altro che rara. Ciascuno dei due proietta sull'altro il proprio modo di vedere il gioco sessuale, così l'etero pensa che anche per il suo amico il gioco sessuale sia solo un gioco senza avere valenze sessuali. E in questa chiave si sente disinibito perché presuppone che l'altro ragazzo sia anche lui etero. Il gay interpreta la partecipazione al gioco sessuale da parte del suo amico etero come se fosse una vera e propria attività sessuale gay e comincia a lavorare di fantasia sul fatto che il suo amico dice di essere etero, ma in realtà è un gay latente che prima o poi si accorgerà di essere gay perché se uno partecipa a un'attività chiaramente sessuale con un ragazzo non può che essere gay. Come è comprensibile? Questi tipi di proiezioni sull'altro del proprio modo di vivere l'esperienza del gioco sessuale possono creare attese, illusioni e successivamente cocenti disillusioni. Il gioco sessuale viene spesso usato dai ragazzi gay, consapevolmente o inconsapevolmente, come tentativo per coinvolgere un loro amico in una dimensione sessuale. Per un ragazzo gay è effettivamente molto difficile capire che un ragazzo etero vive un gioco sessuale in un modo completamente diverso. In questo senso, provare a coinvolgere un amico in un gioco sessuale non è assolutamente un sistema sensato per verificare il suo eventuale essere gay. Per capire se un ragazzo è gay c'è una sola strada, cioè parlare con lui in modo esplicito, cosa molte volte assai difficile se non impossibile. Ma ricorrere a surrogati non espliciti del discorso diretto significa scegliere metodi del tutto inaffidabili. Una caratteristica dei giochi sessuali, nei quali un ragazzo gay tenta di coinvolgere un suo amico per testarne l'eventuale omosessualità o per indurlo all'omosessualità, è costituita dalla gradualità, che è tipica del gioco sessuale non spontaneo ma pianificato. In questa situazione un ragazzo gay che non conosce l'orientamento sessuale del suo compagno cerca di coinvolgerlo dapprima in giochi in cui la dimensione sessuale è poco evidente. Se la risposta partecipativa dell'amico è spontanea, dopo un po' di tempo il ragazzo gay passa ad un gioco in cui i contenuti sessuali sono più espliciti. Se anche in questo caso la partecipazione dell'amico è spontanea, diventa possibile programmare un altro passo in avanti verso una sessualità ancora più esplicita. Secondo il punto di vista del ragazzo gay, quando l'amico avrà accettato giochi scopertamente sessuali, avrà con ciò stesso dichiarato la propria omosessualità. Questa strategia dei piccoli passi sposta sempre più avanti il limite che separa il gioco dalla sessualità. Non sono rarissimi i casi di ragazzi etero che accettino perfino di farsi masturbare dal loro amico, che loro ritengono etero, ma che in realtà è gay. Un fatto del genere viene automaticamente interpretato dal ragazzo gay come manifesta ammissione di omosessualità da parte del compagno. Questa conclusione deriva dall'idea che ciò che conta per identificare un gay sono i comportamenti esterni e che ci sono comportamenti tipicamente gay che un etero non metterebbe mai in pratica. In realtà, l'esperienza insegna che per identificare un ragazzo gay bisogna conoscere l'interpretazione che egli dà dei comportamenti propri altrui. In altri termini, non sono i comportamenti in sé che identificano un ragazzo come gay, ma le interpretazioni che quel ragazzo dà di quei comportamenti. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.